Thank you. E Thank you.

Di sini, I'm going to go back to the sono quanto che sono ma che la vergogna dal più forte che ti ha fatto semua untuk urusan mendera. Osman, yang dibunuh. Meski yang dibunuh. Aku telah berhenti. Thank you. Di Thank you. Thank you. I'm going to go to the next one.